Storie italiane. Il diavolo con tre capelli d'oro. Tanto tempo fa, in un piccolo villaggio, una gran fortuna capitò a una famiglia di contadini. Il loro figlio era nato con una macchia a forma di scettro dietro l'orecchio sinistro. Il bambino era destinato alla grandezza. Avrebbe portato fortuna non solo alla sua famiglia, ma a tutto il villaggio. Si diceva anche che non appena avesse avuto l'età, avrebbe sposato la figlia del re. Erano destinati a stare insieme. La coppia era piena di felicità. Quando il re venne a sapere del bambino, si arrabbiò moltissimo. Come avrebbe potuto dare sua figlia, una principessa, in sposa ad un figlio di contadini? Si travestì da ricco padrone e si diresse verso la casa dei contadini. Finse di non avere figli e propose ai genitori due sacchi d'oro in cambio del loro bambino. La coppia ci pensò su un momento. Rifiutarono umilmente l'oro, ma accettarono di dar via il bimbo. Sapevano di essere così poveri da non poter offrire al loro bambino ciò che meritava. Il re prese il bambino e, senza essere visto, lo nascose su un carro che stava lasciando la città. Voleva tenere il ragazzo lontano da sua figlia. Quella notte tempestosa, il re pensò di aver cambiato il destino. Ma così non fu. Qualche tempo dopo, il re se ne fu andato. Il bambino fu trovato da un uomo umile. Lui e sua moglie non avevano figli. Chiamarono il ragazzo Leo e decisero di crescerlo come figlio loro. Gli anni passarono e Leo crebbe fino a diventare un ragazzo brillante. Una volta, mentre stava attraversando la foresta, «Scusi, signore, saprebbe dirmi come raggiungere la città di Oz?» «Oh, è facile! Gira a sinistra dopo quell'albero dall'aspetto strano, lì, e poi...» «No, come può essere? Io l'ho mandato lontano!» Non appena sarà abbastanza grande, sposerà la figlia del re. «No, non gli permetterò mai di sposare mia figlia. Cosa faccio ora? Aspetta, ho un'idea!» «Ascolta, ragazzo, ho un messaggio reale molto urgente da consegnare alla regina nel palazzo. Mi aiuteresti? È molto, molto importante. Inoltre, non aprire la lettera!» «Oh, capisco, Vostra Maestà. Non aprirò la busta. Partirò immediatamente.» «Oh, per favore! Prima arriverai e prima incontrerai il tuo destino!» Leo iniziò il suo viaggio, completamente inconsapevole che la sua avventura era appena iniziata. Trottò per ore. Il palazzo era distante solo pochi minuti, ma improvvisamente un serpente apparve di fronte al cavallo. «Billy, stai calmo! Dove mi stai portando? Billy, fermati!» Quando il cavallo si fermò, Leo era nel profondo della foresta, lontano dal castello. Per fortuna, trovò una piccola casa. Scese da cavallo e bussò alla porta di legno. «Salve, mi chiamo Leo. Stavo andando a palazzo per consegnare un messaggio importante, ma mi sono perso per strada. Posso restare qui per la notte?» «È una casa confortevole. Grazie per avermi permesso di restare.» «Sembra che tu non sappia chi sono.» «Oh, sì che lo so. Sei Ginger. Le persone in città sono molto spaventate da te. Dicono che tu derubi le case. Buffo però, perché non sembrano sapere in quale casa esattamente tu abbia rubato.» «Questo perché non l'ho fatto. Comunque, Qualunque cosa io dica, la gente non ci crederà mai. Probabilmente è il mio modo di essere che li spaventa. Ma perché non hai paura di me? Bene, io amo le persone, ma non ascolto proprio tutto ciò che hanno da dire. Dicono cose su persone che nemmeno conoscono. Voglio dire, hai lasciato che uno sconosciuto restasse a casa tua per una notte, giusto? Penso che sia generoso. Ginger era scioccato. In tutti questi anni nessuno era mai stato gentile con lui. Leo mangiò qualcosa e andò subito a dormire. Ginger trovò strano che a un civile venisse chiesto di consegnare un messaggio reale. Notò la busta sulla giacca di Leo. Curioso, decise di aprirla. Il portatore di questa lettera deve essere immediatamente gettato nelle prigioni a vita. Perché il re avrebbe chiesto qualcosa del genere? Il re è malvagio nel cuore. Leo non se lo merita. Ginger strappò la lettera, scrisse un nuovo messaggio su un nuovo foglio e lo mise nella busta reale, rimettendolo dov'era. Il giorno seguente, Leo raggiunse il palazzo con la lettera. Colui che consegnerà questa lettera dovrà immediatamente sposare la principessa. Chiamate la principessa Bella, per favore. Bella, tuo padre vuole che tu sposi questo giovane uomo. Sei d'accordo? Come era scritto nel destino, non appena Leo e Bella si guardarono l'un l'altro, si innamorarono. Vorrei sposarlo, madre. La regina era molto felice. Il matrimonio venne celebrato il giorno stesso. Leo e Bella erano molto felici, ma non per molto. Quando il re tornò e scoprì cosa era successo, si arrabbiò moltissimo, ma era troppo tardi. Leo era un principe ora. Il re non avrebbe mai potuto mandare suo genero nei sotterranei. Pensò ad un altro piano. Oh, il mio cuore si spezza. So che avrei dovuto dirtelo prima, ma la principessa è maledetta e morirà il settimo giorno del suo matrimonio. Solo e soltanto una cosa potrà salvarla: i 3 capelli dorati del diavolo. Non posso costringerti ad andare. Io andrò. Non lascerò che succeda nulla a mia moglie. Leo salutò sua moglie. Il suo viaggio verso il diavolo lo condusse nella grande città e mentre cercava di entrare, il guardiano lo fermò. Se tu vuoi entrare, risolvi questo indovinello. Dimmi, perché la fontana del nostro padrone, che una volta ci dava del vino, adesso non ci dà più nemmeno dell'acqua? Leo ci pensò un po'. Conosco la soluzione al tuo problema, ma non posso dirtela per ora. Vedi, sto facendo una ricerca molto importante. E mi è stato detto che colui che mi costringe a rispondere a qualsiasi domanda prima di completare la mia ricerca sarà trasformato in una capra. Qual era la tua domanda di nuovo? Qualcosa su una fontana? Beh. Ma che fretta c'è? Potrai rispondermi sulla via del ritorno. Oh, non sei forse il migliore? Grazie, signore. Leo andò avanti ed arrivò in un'altra città. Il guardiano gli chiese: dimmi, perché l'albero, che una volta aveva mele dorate, adesso ha solo foglie? Leo gli diede la stessa risposta ed il custode lo fece felicemente entrare. Mentre Leo pensava che la serie di strani enigmi fosse finita, si imbatté in un traghettatore che gliene chiese un altro. Ti porterò dall'altra parte, Ma dimmi una cosa, io porto le persone avanti e indietro ogni giorno senza che niente di nuovo accada nella mia vita. Come posso smettere? Leo sospirò e menzionò la capra al traghettatore. Il traghettatore pensava naturalmente che fare il traghettatore per la vita fosse meglio che essere una capra. Portò Leo dall'altra parte e lo salutò con la mano. Leo raggiunse finalmente la tana del diavolo. Fuori vide qualcuno che stava cercando di raccogliere manghi da un albero. Mi dispiace. Non toccherò questi manghi, lo prometto. Cosa? Non sei mio nipote? Phew! Pensavo fosse il diavolo. Perché sei qui? Il diavolo è tuo nipote? Oh, molto bene allora. Potresti dirmi dove si trova? Dovrei fargli 3 domande. Leo raccontò tutta la storia alla nonna del diavolo. Cosa? Il re ha detto che i 3 capelli del diavolo annulleranno la maledizione? Il re sembra essere più malvagio di mio nipote. Ragazzo innocente, tuo suocero vuole che tu ti metta nei guai. Ecco perché ti ha mandato qui. Aspetta, dici sul serio? Ecco che arriva il diavolo. Voglio proprio vedere cosa ne farà di te. Leo era un ragazzo sveglio. Ci pensò un po' e fece un patto con la nonna. La nonna avrebbe salvato Leo e ottenuto la risposta agli indovinelli dei guardiani e del traghettatore. In cambio, Leo non avrebbe detto al diavolo che sua nonna stava cercando di mangiare i manghi. Sei intelligente. Siamo d'accordo a fare fatto. La nonna del diavolo trasformò Leo in una formica e lo mise in tasca. Quando arrivò il diavolo, era così stanco che andò subito a dormire. Nana, cosa stai facendo? Oh, che sogno terribile e spaventoso che ho fatto! Ho sognato che c'era una fontana dalla quale un tempo usciva vino e adesso invece niente, nemmeno acqua. Questo perché c'è un grosso rospo che vive sotto la fontana. Qualcuno deve allontanarlo. Il vino inizierà a scorrere di nuovo. Buonanotte adesso. Dopo un po', mentre il diavolo dormiva profondamente, sua nonna tirò un altro capello d'oro. E adesso? Di nuovo! C'era questo bellissimo albero che faceva mele d'oro e ora ha solo foglie. Povero albero. Un topo rosicchia le sue radici, nanna. Qualcuno deve scacciare il topo. Tutto a posto. Torna a dormire. Proverò a dormire di nuovo. No, so che mi tirerai di nuovo i capelli, quindi eccolo qui. Ora non ho più capelli da tirare. Sei felice? In effetti ho un altro indovinello. Che cos'è? Perché il traghettatore non può smettere di portare le persone avanti e indietro? Lui non vuole farlo, come fa a fermarsi? Perché il remo è maledetto. Deve consegnare il suo remo a qualcuno per liberarsene. Posso tornare a dormire ora? Ovviamente, buonanotte. La nonna trasformò nuovamente Leo nella sua forma umana e gli consegnò i 3 capelli d'oro. Leo si inchinò a lei e se ne andò rapidamente prima che lei cambiasse idea. Hai la risposta? Certo che ce l'ho, ma prima portami a riva. Una volta raggiunto l'altro lato, ti darò la tua risposta. Il traghettatore fece ciò che gli era stato chiesto. Consegna il remo a qualcuno e sarai libero. Arrivederci ora. Sulla via del ritorno incontrò il secondo guardiano. Amico mio, c'è un topo che rosicchia le radici dell'albero, motivo per cui l'albero non fa mele d'oro. Felice, il guardiano andò all'albero e scacciò via il topo. L'albero ricominciò subito a fare mele d'oro. Grati e pieni di gioia, i cittadini regalarono a Leo due sacchi d'oro. Ora era giunto il momento di rispondere alla domanda del primo guardiano. C'è un grosso rospo che vive sotto la fontana. Mandalo via e la fontana ti darà di nuovo del vino. Oh, che splendida fontana che era! Anche quella città ricompensò Leo con 4 sacchi d'oro. Leo accettò la sua ricompensa e partì per il palazzo. Vedendo Leo tornare pieno d'oro, il re fu sopraffatto dall'avidità. Oh, oh, il mio genero è tornato! Ero così preoccupato per te! Dimmi, dove hai trovato tutto quest'oro? Leo ora sapeva quanto il re fosse malvagio. C'è un traghettatore sulla via del diavolo. Tutto quello che devi fare è salire sulla sua barca, prendere il remo e attraversare rapidamente. Ci sono campi d'oro dall'altra parte. Il re si affrettò verso il traghettatore. Senza pensarci due volte, tolse il remo dalle mani del traghettatore. Il traghettatore ballò di gioia e lasciò il re tutto da solo. Nel frattempo, Leo scoprì tutto sui suoi veri genitori. Entrambe le famiglie, la coppia di contadini e la coppia che si era presa cura di lui, furono invitati a palazzo. La profezia si avverò. Leo portò fortuna in tutta la città. E per quanto riguarda il re avido, si crede che continui a traghettare avanti e indietro tutto solo, perché nessuno ha mai osato togliergli il remo.